Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il modo più importante è che abbiamo fatto riunioni fiume sabato e domenica e nessuno ha sollevato questo tema delle ordinanze di chiusura di alcune zone limitate della città. Non possiamo accendere il televisore e trovare il presidente del Consiglio Conte che la prima cosa che dice è che i sindaci devono fare il coprifuoco in alcune zone della città. Non è corretto dal punto di vista istituzionale. Questa è la lamentela, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del sindaco di Bari, Antonio De Caro, nonché presidente dei sindaci italiani, che a proposito del DPCM di ieri sera, presentato dal presidente del Consiglio Conte, ha detto, questa è la polemica insomma centrale, non si può scaricare sui sindaci il fatto di dire va bene, a voi diamo il potere di chiudere delle zone, delle strade, delle piazze, della movida, controllate voi eccetera eccetera. E dice questa è stata una scorrettezza istituzionale, non solo perché l'hanno vissuto i sindaci come uno scaricabarile sulle loro spalle, ma anche perché dice non siamo stati coinvolti, e arriva ieri sera così improvvisamente questa notizia, questa richiesta. Poi oggi però nel tardo pomeriggio De Caro ha detto, poi ci siamo chiariti, però lo stesso gli è rimasta una certa irritazione, e non soltanto a lui. Diciamo che ci sono vari aspetti così un poco chiari o controversi, come vogliamo dire, di questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio, che analizzeremo stasera con costituzionalista Celotto, con il portavoce dei funzionari di polizia Laconiti, ma anche da un punto di vista politico, cioè il governo ha fatto delle scelte di chiaro indirizzo, delle scelte nette, oppure ha avuto un atteggiamento attendista, prudente, in attesa di vedere come vanno i numeri, e potrebbe essere tardi poi? Ecco, ci faremo queste domande, cercheremo di darci delle risposte, domande e risposte che potete fare tranquillamente anche voi attraverso i vostri due canali privilegiati qui Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte e poi il 349-238-6666, il numero per i WhatsApp, 349-238-6666. Poi tra gli ospiti stasera ci sarà anche il sindaco di Firenze Nardella, per sapere, ecco, dal suo punto di vista come ha vissuto questo aspetto del DPCM che riguarda in particolare i sindaci e anche poi altre questioni. Tra l'altro è notizia proprio di poco fa che la regione Lombardia ha chiesto al governo di instaurare il coprifuoco in tutta la regione a partire da giovedì dalle 23 fino alle 5 del mattino. Il ministro della Salute è parso piuttosto favorevole. Allora, prima di approfondire tutti questi temi, sintesi della giornata. Il coronavirus in Italia, in calo i nuovi contagi, ma a fronte di meno tamponi, in aumento le vittime. Le prime vaccinazioni ci saranno in primavera, dicono dal Consiglio Superiore di Sanità. Il nuovo DPCM, ancora polemiche tra esecutivo ed enti locali sulle chiusure previste dal nuovo decreto. Il controllo spetta al governo, avvertono i sindaci. In serata chiarimenti, ma il presidente dei sindaci De Caro e Conte. E intanto la Lombardia chiede al governo il coprifuoco per tutta la regione dalle 23 alle 5 a partire da giovedì, favorevole il ministro Speranza. Economia: Conte e Gualtieri presentano la manovra, oltre 70 miliardi nel 2021 per la ripresa. Il presidente del Consiglio conferma subito al lavoro per una riforma organica del fisco. Cina: sale di quasi il 5% il PIL cinese nel terzo trimestre. Aveva contagiato 30 donne con l'HIV, confermata la condanna a 24 anni di carcere. Calcio: in campo Verona-Genoa, chiude la quarta di Serie A, vigilia intanto di Champions League. Partiamo quindi inevitabilmente dall'andamento del coronavirus in Italia. Oggi si sono registrati meno contagi, ma a fronte di meno tamponi. Tornano sotto quota 10.000 i nuovi casi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 9.338, ma a calare come ogni lunedì è anche il numero dei tamponi, quasi 99.000, 48.000 in meno rispetto al giorno precedente. I deceduti sono invece 73. La Lombardia si conferma la regione più colpita, seguita da Campania e Toscana. Il rapporto tra nuovi contagi e tamponi effettuati sale al livello record del 9,4%, rileva il fisico Giorgio Sestili. La Federazione dell'Ordine dei Medici chiede di rafforzare il sistema di tracciamento che sembra in difficoltà visto l'aumento dei malati. Le prime vaccinazioni saranno fatte verosimilmente ad inizio primavera, fa sapere intanto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Comitato Tecnico Scientifico, il quale spiega che ad essere vaccinate per prime saranno le persone fragili, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi, come vi dicevo, c'è la polemica tra governo ed enti locali sulle misure previste dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio. I sindaci chiedono a Palazzo Chigi più collaborazione. Ci siamo sentiti con De Caro e la ministra Lamorgese, commenta Conte, e abbiamo già concordato un protocollo che consentirà ai sindaci, sentite le ASL, di adottare una proposta per le piazze e le vie che più si prestano ad assembramenti. I comuni individueranno le aree con i maggiori assembramenti, ma sarà il governo a doverne garantire la chiusura. Lo afferma il presidente dell'ANCI Antonio De Caro, abbassando i toni dopo il botta e risposta in mattinata tra sindaci e governo, seguito all'annuncio del presidente del Consiglio Conte, che in conferenza stampa domenica sera aveva attribuito ai sindaci il compito di attuare o meno un eventuale coprifuoco dalle 21 in strade o piazze a rischio assembramenti. Una polemica cui era seguita una nota del Viminale in cui si precisava che i primi cittadini saranno supportati in tutto dai prefetti. Al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, De Caro ha dunque dichiarato che i sindaci mai si sottraggono alle responsabilità, specie in situazioni d'emergenza. Se dobbiamo individuare strade e piazze da chiudere, lo faremo, ma, ha sottolineato il presidente dell'ANCI, lo Stato dovrà assicurare il controllo attraverso le forze dell'ordine. Ancora polemico invece Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che ha definito i compiti attribuiti agli amministratori locali esagerati, quasi da Stato di Polizia. Controcorrente rispetto ai suoi omologhi italiani, il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che ha dichiarato: la misura restrittiva prevista dal DPCM riguarda competenze che sono già in capo a noi da adottare in accordo con la prefettura. Si sta facendo polemica sul nulla. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Lombardia ha deciso di chiedere al governo l'istituzione del coprifuoco in regione dalle 23, dopo che la commissione indicatori istituita dalla Direzione Generale del Welfare ha previsto che al 31 ottobre potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva in Lombardia e fino a 4.000 in terapia non intensiva. Il ministro Speranza, a proposito di questa richiesta della Lombardia di coprifuoco a partire da giovedì, quindi dicevamo dalle 23 alle 5, si è detto favorevole a questa ipotesi. Nel frattempo è stata respinta dal TAR della Campania l'istanza cautelare contro l'ordinanza regionale che chiude le scuole nella regione fino al 30 ottobre. In pratica il TAR ha dato ragione al presidente della regione Campania De Luca. E adesso passiamo all'emergenza economica e alle misure per la ripresa. Nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi è stata presentata la manovra, misure per le famiglie e imprese, ha detto Conte, e poi risorse significative per sanità, trasporto scolastico per venire incontro ai settori più colpiti. La manovra economica ha due obiettivi: sostegno e rilancio dell'economia italiana. Una manovra per restituire fiducia e sviluppo al paese. Il premier Conte illustra i contenuti di un provvedimento che, dice, vuole rafforzare la sanità, il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti con un nuovo ciclo di cassa integrazione e misure di sostegno alla liquidità delle imprese, primo e significativo tassello di una riforma organica del fisco. È una manovra ambiziosa con un forte impulso per la ripresa e per gli investimenti, dice il ministro dell'economia Gualtieri, che assicura dal 1 luglio partirà l'assegno unico fino a 200 euro a figlio. Il governo per il 2021 mobilita circa 70 miliardi di risorse per la ripresa. E intanto si infiamma il dibattito politico sul MES dopo le parole di ieri di Conte, che di fatto hanno bocciato la misura del cosiddetto fondo salva stati. Il PD chiede che il premier si presenti in Parlamento e non con una battuta in conferenza stampa. Critica Italia Viva per Renzi: dire no al MES è un grave errore politico. Piena condivisione invece da parte del Movimento 5 Stelle, mentre Conte in seguito frena: la questione del MES non è risolta, ci sono le sedi opportune, ne parleremo, e anzi lancia quella che chiama un patto di legislatura per la maggioranza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci all'estero. Il Covid dilaga nel mondo e in Europa. Nel vecchio continente quasi 170.000 morti in più in 4 mesi rispetto alla media. In Francia in isolamento anche Brigitte Macron. In Belgio avvertono vicini a uno tsunami di contagi. Il Galles in lockdown da venerdì, ovunque insomma è stretta sulla movida. Anche la Premier Dame di Francia in isolamento per una settimana. Brigitte Macron, consorte del presidente Emmanuel Macron, mentre prosegue il coprifuoco nel paese dopo il primo weekend dalle 21 alle 6 del mattino, è un caso contatto al Covid-19. Non ha sintomi, ma così prescrive il protocollo. E intanto? Mai così tanti contagi nel mondo, 2,5 milioni in 7 giorni, dato record da inizio pandemia, e si sono superati 40 milioni di casi, mentre secondo l'Eurostat nel 2020 tra i 26 stati membri dell'Unione Europea si sono verificati 168.000 decessi in più durante le settimane tra marzo e giugno rispetto al numero medio dello stesso periodo nel quadriennio 2016-2019. Il numero più alto di decessi aggiuntivi si è registrato in Spagna, 48.000, seguito da vicino dall'Italia, 46.000, Francia 30.000, Germania e Paesi Bassi circa 10.000 ciascuno. I restanti 21 stati membri hanno registrato tutti insieme quota 25.000. E ancora in Europa entrano in vigore nel Galles le misure più severe di tutto il Regno Unito, dove sono oltre 18.000 i casi nelle ultime 24 ore. Entrerà in lockdown da venerdì fino al 9 novembre a partire dalle 18, ora locale, mentre i negozi non essenziali saranno chiusi. Belgio, chiusura di bar e ristoranti e il coprifuoco dalla mezzanotte alle 5 del mattino. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Diventa operativo oggi il sistema europeo di tracciamento per il coronavirus che collega le app di contact tracing come l'italiana Immuni. Si inizia con l'app di Italia, Irlanda e Germania. Quindi se un italiano che usa Immuni dovesse entrare in contatto con una persona che usa un'applicazione tedesca che risultasse poi positiva, riceverebbe l'allerta di contatto a rischio. Ancora all'estero, il Ministero dell'Interno bielorusso annuncia che sono 280 le persone arrestate ieri per aver partecipato alle proteste di massa contro il regime di Lukashenko, di cui 215 nella capitale Minsk. E poi notizie sull'economia cinese, che segna nel terzo trimestre 2020 un PIL in crescita annua del 5%, aumento del 3,2% sui mesi precedenti. La Cina è l'unico paese indicato dal Fondo Monetario Internazionale in crescita nel 2020, con una stima sull'anno dell'1,9%. In Francia invece, a proposito del professore decapitato nei giorni scorsi, 15 persone, tra cui 4 studenti, sono state poste in stato di fermo nel quadro dell'inchiesta sul professore di storia ritrovato decapitato nella banlieue di Parigi. Secondo Radio Europe 1, il 18enne attentatore avrebbe distribuito soldi, almeno 300 euro cash, a diversi studenti per ottenere informazioni sul suo obiettivo. Intanto l'omaggio a Samuel Paty si terrà alla Sorbona mercoledì prossimo a partire dalle 19. Di nuovo in Italia con le amministrative in Sicilia e il risultato dei ballottaggi. Il centrodestra unito vince ad Agrigento, il centrosinistra senza il Movimento 5 Stelle si impone a Carini nel palermitano. I due principali schieramenti segnano un punto ciascuno nel ballottaggio delle amministrative siciliane. Nella città dei templi il nuovo sindaco è Franco Miccichè, candidato inizialmente da Vox di Diego Fusaro e da un pezzo del Movimento per l'Autonomia, e che al ballottaggio ha incassato l'appoggio del centrodestra. Miccichè ha battuto l'uscente Calogero Firetto, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva è parte del Movimento per l'Autonomia. A Carini, grosso centro industriale alle porte di Palermo, la spunta l'uscente Giovì Monteleone, che ha battuto lo sfidante Salvatore Sgroi. Più di carattere locale le altre due sfide, a Floridia e Augusta, in provincia di Siracusa. Nel primo dei due centri la vittoria va a Marco Carianni, che batte Salvatore Burgio. Ad Augusta invece il candidato del centrodestra, Giuseppe Di Mare, batte il civico centrista Pippo Gulino. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E da gennaio è prevista la lotteria degli scontrini, con premi per chi paga con le carte arriveranno fino a 5 milioni, ma soprattutto da dicembre chi usa moneta elettronica potrebbe essere premiato. Sentiamo perché. Una nuova arma contro l'evasione fiscale, rimborsi e premi a chi usa mezzi di pagamento tracciabili, ovvero carte, bancomat, bonifici, app. Le norme sono nel decreto agosto, ora legge, e la bozza del decreto attuativo prevede il via al programma cashback a dicembre, con una fase sperimentale. Nel mese degli acquisti natalizi agli aderenti basteranno 10 pagamenti tracciabili per ottenere a febbraio un rimborso fino a 150 euro, il 10% di un tetto di spesa complessivo di 1.500 euro. A regime, stesso rimborso, ma per un minimo di 50 transazioni a semestre, e c'è di più per i primi 100.000 aderenti con il maggior numero di transazioni digitali: super premi da 1.500 euro. Per partecipare al programma bisognerà essere maggiorenni e iscriversi sull'app Io o su altri sistemi degli operatori convenzionati con PagoPa, fornendo tra l'altro l'IBAN del conto corrente su cui arriveranno i rimborsi. Adesione volontaria e cancellabile, rimborso calcolato su massimo 150 euro a transazione. Le spese superiori concorreranno fino a quella soglia. Vietati frazionamenti artificiosi dei pagamenti, nessuna categoria merceologica è esclusa, ma l'incentivo non vale per lo shopping online. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora la cronaca giudiziaria. Nel processo di appello bis a Valentino Talluto, l'uomo accusato di aver contagiato volontariamente con l'HIV una trentina di ragazzi a Roma, è stata confermata la condanna a 24 anni di carcere per lesioni gravissime, così come stabilito nel processo di primo grado di 3 anni fa. Poi la Cassazione era stata lapidaria, questo è un altro caso. L'aspetto fisico di una donna che si dichiara vittima di stupro è del tutto irrilevante e si tratta di un elemento non decisivo per valutare la credibilità sua e dei suoi aggressori. Con queste motivazioni, l'anno scorso la Cassazione aveva annullato la sentenza shock della Corte d'Appello di Ancona, che aveva assolto 2 giovani sudamericani accusati di aver violentato una ragazza peruviana a Senigallia. Un verdetto che aveva fatto scalpore perché si faceva riferimento anche alla mascolinità della ragazza per dare credito alla versione assolutoria dei due imputati e al contrario minare la credibilità della vittima. La sentenza è stata così annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, che oggi ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, 5 anni di reclusione per un imputato, 3 per l'altro. I fatti risalgono a marzo 2015. Solleviamo un po' l'animo e gli occhi verso lo spazio. Le stelle cadenti d'autunno sono pronte a dare spettacolo. Nel cielo sono di scena le Orionidi, meteore figlie della cometa di Halley, che raggiungeranno il picco all'alba del 21 ottobre, quindi tra 2 giorni. Quest'anno le condizioni di osservazione meteo permettendo sono ottimali, perché la Luna sarà del tutto assente, tramontando nella prima parte della notte, lascerà completamente la scena libera alle Orionidi. Per chiudere sport, dopo 7 vittorie in altrettanti incontri, la nazionale di calcio femminile è pronta a tornare in campo per continuare il percorso di qualificazione all'Europeo 2022 e stasera si raduna a Coverciano per preparare il match contro la Danimarca in programma il 27 ottobre a Empoli. Mentre per il calcio maschile si aggiorna il nostro Dario Ricci con la 4ª giornata di Serie A. Dario? Sì, 4ª giornata di Serie A che si chiude questa sera appunto al Bentegodi di Verona, dove gli scaligeri ospitano Il Genoa fortemente rimaneggiato, come sai Roberta, a causa dei diversi casi positivi, di positività, certo, al Covid, ma un Genoa orgoglioso che, oltre ad affrontare come da regolamento chiaramente la trasferta, sta anche facendo una buona gara. Siamo al 33esimo, risultato di 0-0, ma proprio mentre ti stavo parlando Pandev ha avuto per i rossoblù una buona occasione, respinta in angolo e chiuso dalla difesa veronese. Pensa che causa le assenze il Genoa fa esordire oggi anche dal primo minuto il giovane Rovella, classe 2001, chissà mai che questo periodo così sfortunato non sia per qualcuno, e glielo auguriamo davvero anche a lui, come a tanti giovani calciatori protagonisti della nostra Serie A, anche l'occasione per mettersi in luce. Comunque 34esimo di gioco, risultato ancora sullo 0-0, adesso un pericoloso contropiede per il Verona che Perin sventa in angolo, e poi domani sera torna la Champions, ma questa è davvero un'altra storia. E allora l'altra storia la racconteremo magari domani, adesso ci fermiamo, poi ci aggiornerà ancora Dario Ricci su questa partita in corso. Lascio velocemente la linea alla viabilità in modo che torniamo subito insieme e cominciamo ad approfondire alcuni temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano naturalmente sempre con voi. Cominciamo allora adesso ad addentrarci dentro alcuni temi, in particolare con l'aiuto degli ospiti che in modo chiaro e esauriente ci aiutano a comprendere meglio alcuni temi, alcuni concetti. Allora vedo già molti vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte 349-238-6666 sul nuovo DPCM, in particolare questa polemica, diciamo, tra sindaci e governo, anche se in parte smussata. Per esempio dice Marco da Torino: a me sembrano polemiche pretestuose, se Conte avesse dichiarato il lockdown generale, dice, avrebbe avuto una rivoluzione come esito. Lo ha evitato delegando le decisioni a chi conosce meglio il territorio, cioè agli enti locali, e stendiamo, dice, un velo pietoso su un'opposizione a dir poco contraddittoria. Per mesi chiede le dimissioni di chiunque sia nel governo, poi pretende un coinvolgimento improbabile. E vabbè, questo appunto è il punto di vista di Marco. Poi c'è chi dice Conte ha detto che i sindaci possono fare lockdown, non devono fare lockdown, dice un altro ascoltatore. E poi un altro messaggio, nel quale poi bisogna passare subito agli ospiti, Carla Da Torino dice: gli enti locali si lamentano se lo Stato prende decisioni, ma si lamentano anche quando lo Stato lascia loro le decisioni, non se ne può più, con questo non voler mai assumere delle responsabilità, dice Carla. E adesso ci concentriamo proprio su questi aspetti. La strategia diversa è quella che si incentra sull'utilizzo di queste precauzioni, le mascherine, e poi misure di contorno per cercare di contenere questa curva che è obiettivamente è preoccupante. Allora è chiaro che ci stiamo predisponendo per arrivare ad evitare un lockdown generalizzato. The day after, siamo al giorno dopo del nuovo DPCM illustrato ieri, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio illustrato da lui stesso in conferenza stampa, che sta creando un po' di polemiche, un po' di confusione, un po' di malcontento, non però come quelli precedenti di DPCM che erano criticati soprattutto per le misure eccessivamente stringenti per diverse categorie, insomma dal punto di vista di diverse categorie, ma piuttosto per dei provvedimenti che in parte irritano o mettono in difficoltà i sindaci, lo avete sentito, adesso ne parleremo ulteriormente, sindaci che accusano il governo di scaricabarile, anche se poi appunto dicevo c'è stato un po' un chiarimento in serata, e in parte provvedimenti che non sembrano né carne né pesce, cioè per qualcuno sono un po' tiepidi, nel senso che non hanno preso una direzione netta, non danno delle indicazioni precise. Allora ne voglio parlare con il professor Alfonso Celotto, costituzionalista, che non ha bisogno di presentazioni ormai. Professor Celotto, bentornato. Grazie, con piacere, anche se nella sua introduzione lei ha detto che gli ospiti devono essere chiari ed esaurienti. Certo che rispetto al DPCM è quasi uno stimolo dire chiaro ed esauriente. È la sua sfida però, il professor Celotto stasera. Allora io faccio una sintesi estrema di alcuni dei principali provvedimenti contenuti in questo nuovo DPCM. Quindi a tavola al ristorante solo in 6, non di più. Sì. Ecco, massimo 6. In casa è raccomandato, naturalmente, perché abbiamo già detto che nessuno viene a bussare a cercare. Fortemente raccomandato. Invece al ristorante è obbligatorio, non più di 6. Ingresso a scuola, possibilmente, non prima delle 9. Quindi anche qui è più quasi un consiglio, un'indicazione. E poi invece c'è la volontà di mantenere la didattica in presenza per i più piccoli. Stop a fiere locali e a convegni. Più smart working, anche qui però non si dice quanto, se è obbligatorio, eccetera, ecco perché tante cose, alcune critiche rimangono in sospeso, meno sport di contatto, anche le palestre, non si capisce, danno una settimana per adeguarsi a chi non si è adeguato, adesso vorrei capire anche come si potrà andare in ogni singola entro una settimana a palestra a vedere se tutti si sono adeguati, qualcuno dei gestori ho sentito avrebbe preferito la chiusura e un ristoro piuttosto che star lì così un po' nel limbo. Che dice professor Celotto dal suo punto di vista? Secondo me la cosa più interessante sarà proprio la difficoltà con cui è stato partorito questo DPCM. No, noi da venerdì sera ci aspettavamo tutti il coprifuoco su tutto il territorio nazionale, poi si è discusso sabato, si è discusso domenica e alla fine domenica sera è uscito fuori così questo provvedimento né carne né pesce, no? Che scontenta sia i falchi che le colombe. E questo ci dà anche il segno che in fondo c'è un po' di litigiosità, un po' di incertezza all'interno del governo, perché c'erano proprio i falchi, quelli che volevano chiudere tutto in nome dell'interesse sanitario, e invece gli altri, quelli più colombe potremmo dire, che invece preferiscono l'idea che in nome dell'interesse sociale, dell'interesse economico, si devono fare provvedimenti più cauti, ma anche provvedimenti differenziati sul territorio, che è un tema sicuramente giusto, perché sappiamo che ci sono alcune regioni che sono più avanti con i contagi e quindi non puoi trattare oggi la Basilicata come Milano o il Molise come Roma, no, giustamente. E quindi serve una differenziazione, però poi su questo punto c'è stato questo scontro politico un po' veramente forte, no? Su a chi spetta la responsabilità di chiudere, e finora aveva sempre chiuso il governo, ricordiamo anche le polemiche iniziali su Alzano, Nembro, se avesse chiuso, non chiuso, fatto doveva male. Doveva essere la regione, doveva essere il governo, eccetera. Quello che è successo poi a Bergamo, insomma, la città più colpita. Bergamo. E poi però, da ultimo, anche spesso i sindaci hanno protestato che subivano queste misure del governo, volevano invece differenziare. Quando invece ieri sera è stata data la palla ai sindaci, a un certo punto c'è stato un po' questo cortocircuito istituzionale che non è neanche chiarissimo, perché da un lato anche la Costituzione ci dice che fra enti locali servono differenziazione, adeguatezza, proporzionalità, Mai come in questo caso, perché bisogna giustamente differenziare le misure, però è anche vero dall'altra parte che i sindaci non hanno l'esercito a loro disposizione, ma hanno soltanto i vigili urbani. E poi tante volte i sindaci sono così prossimi ai decisori, a coloro che subiscono le decisioni, che si sentono anche in difficoltà, soprattutto in un paesino piccolo, no? A chiudere la piazza, a chiudere una zona. È impopolare, diciamo, sono decisioni impopolari. Sì, no? Anche se devo dire, professor Celotto, che lo stesso Antonio De Caro, il presidente dei sindaci, nonché sindaco di Bari, che ha lanciato, ecco, diciamo, questa critica, questa polemica per primo, ha già chiuso alcune piazze, alcune vie della Movida. Lo stesso è successo a Bologna, ho visto poco fa che anche lì sono state chiuse alcune piazze più frequentate, insomma. Sì, ma giustamente la Lombardia ha detto che chiuderà probabilmente da giovedì, almeno per il fine settimana, perché poi secondo me è difficile dire. Se sei anche qui a Roma sulla Raggi, no? Si diceva, ma la Raggi è più popolare se chiude o più popolare se non chiude, ma secondo me comunque trovi le persone divise, perché ci sono in questo momento, in questa fase di incertezza, alcuni che vorrebbero misure più rigorose e altri che invece dicono bene o male conviviamoci col virus. Infatti vedo conti. Anche attraverso i messaggi, professor Celotto, c'è chi pende da una parte e chi dall'altra, chi dice ma in realtà queste misure non servono a niente, avrebbe dovuto prendere decisioni più drastiche, chi dice beh almeno ha lasciato, ha permesso che, secondo lei, poi ne parlerò da un punto di vista politico con la nostra commentatrice, e in realtà appunto forse, diciamo, spinto da, perché ci sono anche all'interno del governo dei ministri che spingono verso, soprattutto del PD, linee più rigide, chi invece dice no, quindi guardi, falchi e colombe, cioè Cuba 1962, sarebbe interessante non intervenire capire qual è l'interesse nazionale, no? Ma vedi, c'è anche un'altra questione, secondo me in questo momento ce l'abbiamo poco chiaro l'interesse nazionale, perché mentre a marzo era chiaro stop totale, l'interesse sanitario innanzitutto, adesso sappiamo che l'interesse economico e quello sociale, anche sui rapporti sociali, paralavorativi, e sono quasi altrettanto importanti come quello sanitario. E quindi c'è questa fase un po' di bilanciamento, probabilmente Conte ha scelto questa tecnica cerchio bottista, anche le palestre, aspettiamo una settimana, cioè aspettiamo una settimana per vedere che succede come i contagi, se i contagi scendono, se si riescono a fare protocolli più rigidi. Perché? Perché altrimenti poi noi abbiamo anche l'abitudine italiana, questa è una cosa da segnalare. Aveva visto lo scorso DPCM, diceva chiudiamo i bar alle 24. Un po' di bar avevano cominciato a chiudere alle 24 e riaprivano a mezzanotte e mezza. E quindi questo DPCM deve dire che prima delle 5 del mattino non apre nessuno, no? Perché poi c'è anche questa tendenza un po' confusa che ognuno fa quello che gli pare. Tra l'altro, professore, mi dica una cosa, i metronotte sono contagiosi? No, perché vedo che Burioni hanno i campanelli ai piedi. Ecco, il virologo Burioni ha appena detto: di fronte a numeri drammatici in Lombardia, la proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5 è perché è provato scientificamente che il maggior veicolo di contagio sono i metronotte. Evidentemente. Beh, mi fa tornare alla mente la vecchia questione se i runner sono o meno i più contagiosi, per cui si può correre o non correre, però mi sembrano anche un po' così. Leggende metropolitane. No, su quello sui runner non ne parliamo, ci hanno fatto tante arrabbiare. Però invece per quanto riguarda i metronotte è proprio una battuta di Burioni, perché evidentemente sì, no, è una battuta, chiaramente, ritiene perché, che chiudere dalle 23 alle 5 abbia scarsissima efficacia, insomma, dice la notte, ma chi è che va in giro? Professor Celotto, siamo tutti un po' incerti. C'è anche il portavoce dei funzionari dell'Associazione dei funzionari di polizia, Girolamo Laquaniti, che torna con grande piacere. Anche dottor Laquaniti, buonasera. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori, al professor Celotto, che ammiro personalmente. Grazie, mi fa molto piacere. Pieno di ammirazione questo professor Celotto. Senta, dottor Laquaniti, invece, a proposito di chi deve controllare, allora, a questo punto i sindaci tutti, da De Caro a Mastella, sindaco di Benevento, Nardella, che sentiremo tra poco, eccetera, hanno detto non scaricate sulle nostre spalle, che già abbiamo tante incombenze, anche la questione dei controlli. D'accordo, noi selezioniamo, diciamo più o meno quali potrebbero essere le piazze, le vie dove si rischia troppo assembramento, da chiudere, però poi sono le forze dell'ordine, quindi lo Stato che deve controllare, che deve andare lì a fare i controlli, sanzioni, eccetera. Che dice dottor Laquaniti? Ma io do una risposta prettamente tecnica, nel senso che, se come dice giustamente secondo me il professor Celotto, qui si tratta di interpretare quelle che sono le realtà locali per evitare di trattare in modo omogeneo realtà eterogenee, quindi trattare allo stesso modo realtà completamente diverse, Credo che questo possa realizzarsi poi in sede locale, dove, ricordiamolo, esistono anche i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove tra l'altro i sindaci ormai da tempo sono membri di questi comitati, e lì le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il prefetto e il questore come autorità tecnica, dovranno trovare un bilanciamento di quelle che sono le risorse in campo e di quelle che sono le priorità, perché ricordiamolo, le forze dell'ordine oggi come oggi sono ritornate alle loro attività ordinarie, perché purtroppo il crimine ha ripreso la sua azione. Noi abbiamo fenomeni che ci tengono particolarmente attenti per quanto riguarda il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, quindi è evidente che le risorse sono limitate e devono fronteggiare una serie di problematiche che sono sia quelle dei controlli legittimi in base alle eventuali ordinanze dei sindaci, ma sono anche tutte le altre attività che quotidianamente assorbono anche le forze di polizia a competenza generale. Da questo punto di vista credo che una giusta mediazione si possa trovare proprio in quelle che sono le sedi che giuridicamente sono previste, cioè i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto non a caso è a capo della prefettura, ma che è anche l'ufficio territoriale del governo. Del governo, certo, rappresentate il governo. È il punto di sintesi. Bene, io direi a questo punto, se il professor Celotto non ha altro da aggiungere molto brevemente, perché siamo in chiusura, professor Celotto, quindi per il momento insomma questa è la situazione, e poi ne parleremo anche da un punto di vista politico, che probabilmente si attende man mano di vedere quali sono i numeri, e lì di essere probabilmente, sentirsi più da parte del governo sostenuto, giustificato nel prendere misure più stringenti. Insomma, mi pare assolutamente questo. D'altra parte il punto è quello che giustamente ricordava il portavoce della polizia, cioè proprio serve un'attenzione ai territori, una differenziazione, giustamente a livello di prefettura, a livello provinciale è forse il momento più adatto, però d'altra parte c'è anche da dire che nessun paese nel mondo intorno a noi, europeo almeno, sta facendo di nuovo lockdown totali, proprio perché questa fase si cerca di affrontare diversamente. Comunque ci aspettiamo tutti settimane complicate, ecco, quindi ne riparleremo sicuramente. Certo, ci ritroveremo, grazie professor Celotto, grazie dottor Laquaniti, grazie a grazie voi, a lei, grazie. Buona serata, buon lavoro. Ci fermiamo brevemente per una pausa di riflessione, per i vostri commenti continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte e WhatsApp al 349-238-6666. Torno ratta come la folgore. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Deve aver fatto un effetto particolare su Effetto Notte, un numero enorme di messaggi che sono arrivati, si è bloccato il WhatsApp. Io mi scuso se non riesco adesso a leggere tutti i vostri messaggi e rispondere come faccio di solito anche a fine trasmissione. C'è stato un blocco particolare, però vedo molta partecipazione anche questa sera. Roberta Giordano con voi a proposito del nuovo DPCM e degli aspetti diciamo un po' più da chiarire, o anche delle critiche sollevate dalle polemiche, in particolare dai sindaci. Abbiamo cercato di chiarire con il costituzionalista Celotto e anche col portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, insomma, chi deve fare cosa, anche se in serata, come dicevo, c'è stato De Caro, presidente sindaco di Bari e presidente dei sindaci italiani, ha detto che un po' c'è stato un chiarimento col presidente del Consiglio Conte e con la ministra dell'Interno Lamorgese. In sintesi, come dovrebbero funzionare queste ordinanze da parte dei sindaci per chiudere o una piazza, una via a rischio di eccessivo assembramento? Dovrebbero essere ordinanze lampo, firmate come già succedeva dai sindaci, ma ora solo dopo essere condivise con prefetti e ASL. Quindi sono state fissate le procedure previste per questa stretta antimovida introdotta nel nuovo DPCM. Però voglio sentire direttamente un sindaco di una grande città, di una bellissima città conosciuta in tutto il mondo come Firenze, che è Dario Nardella, che ringrazio di essere qui in collegamento Effetto Notte. Buonasera sindaco Nardella. Buonasera a voi, grazie. Senta, allora, quindi c'è stato chiarimento, siete più tranquilli adesso voi sindaci, questo potere che avete, anche se il sindaco di Aosta dice in realtà questa cosa, questa competenza l'abbiamo sempre avuta, non vedo perché tutto questo baccano, queste polemiche. Lei come l'ha vista, insomma, questa decisione? Guardi, intanto siamo credo contenti, soddisfatti che ci sia stato uno sforzo per chiarire una norma che altrimenti avrebbe potuto creare molti problemi, perché è vero che i sindaci anche prima di questo decreto potevano chiudere strade e piazze, anzi lo abbiamo fatto, io stesso l'ho fatto a Firenze per una piazza molto conosciuta per la Movida, ma la norma del decreto punta a qualcosa di molto più ampio, vasto, quasi una sorta di coprifuoco in zone della città. Per questo i sindaci si sono preoccupati, non perché non vogliamo prenderci responsabilità, lo abbiamo sempre fatto in questa emergenza e sappiamo bene che i cittadini hanno noi come istituzioni più vicine, ma quello che per noi era fondamentale e tuttora, avere una collaborazione piena dello Stato attraverso le prefetture e delle autorità sanitarie, perché come faccio io, diciamo, a individuare una piazza, una strada solo sulla base delle mie conoscenze, che pure sono importanti perché i sindaci conoscono le città, però i dati epidemiologici, i rischi sanitari sono le autorità sanitarie a darle, poi i controlli. Chiudere una piazza senza controllarla rischia di essere un boomerang, per questo abbiamo chiesto il massimo supporto alle prefetture che mettono a disposizione le forze dell'ordine, che non dipendono dai sindaci ma dipendono appunto dallo Stato per effettuare i controlli e far rispettare le regole sulle chiusure. Senta, Sindaco Nardella, le faccio sentire Conte oggi a proposito dei sindaci, che cosa ha detto? Ci siamo sentiti con il Presidente De Caro, anche con la Ministra Lamorgese, e siamo d'accordo, abbiamo già concordato un protocollo che consentirà ai sindaci, sentite le ASL e quindi gli uffici territorialmente competenti in materia sanitaria, di elaborare una proposta per quelle che possono essere le piazze, le vie cittadine che più si prestano al rischio di assembramenti. Di modo che questa proposta verrà portata al Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, per cui nell'ambito di una riunione tecnica troverà conferma questa indicazione e verrà poi demandato alle forze di polizia, quindi col questore, con tutti gli organi competenti, di effettuare poi i controlli, dare attuazione a queste misure. Stiamo parlando di misure sperimentali. Noi dobbiamo anche costruire qualcosa di nuovo. Costruire qualcosa di nuovo, quindi insomma, diciamo, la situazione è difficile, torna difficile, Nardella. A proposito, in Toscana vedevo 986 casi in più, oggi 12 decessi, quindi anche la situazione della Toscana. Va aggiunto che oggi abbiamo fatto in Toscana, sono stati fatti 3.000 tamponi in meno rispetto al giorno precedente, quindi il rapporto è ancora più, diciamo, preoccupante. Speriamo che questo aumento del contagio si stabilizzi in tempi brevi, ma questo ci fa capire che da un lato dobbiamo puntare sulla precauzione e anche su un po' di sacrifici di tutti, dall'altro dobbiamo anche evitare che tutto questo ricada sull'economia, sul lavoro, come è già successo per il lockdown che abbiamo alle spalle. Non sarà facile, ma dobbiamo tenere insieme le due cose, la salute, il lavoro e l'economia. Lo dico da una città come sa bene lei, tutti i radioascoltatori, che vive di turismo, di globalizzazione, di export e che sta risentendo moltissimo di questa crisi. Sindaco Nardella, lei ha già in mente, quindi in base a quello che il DPCM ha stabilito, di già in mente di chiudere alcune zone, alcune piazze, alcune vie? Cioè, ha già individuato oppure? Sì, stamattina mi sono subito sentito con il nostro prefetto. Abbiamo deciso di convocare domani un COSP provinciale, quel comitato di cui parlava il presidente Conte, ci saranno anche i sindaci di tutta l'area metropolitana, il questore ovviamente, i rappresentanti delle forze dell'ordine, e lì valuteremo strade e piazze ulteriori rispetto a quelle che abbiamo già chiuse. Quindi io non escludo già da ora che ci saranno nuovi luoghi, anzi proporremo alcune aree, perché ovviamente so bene quali sono le zone diciamo con maggiore assembramento della nostra città, e lo faremo però anche sulla base della disponibilità delle forze dell'ordine, perché se gli agenti non bastano, inutile chiudere 20 piazze, dobbiamo fare anche queste operazioni sulla base dell'effettiva disponibilità di uomini per i controlli. Per chiudere, sindaco Nardella, lei avrebbe voluto a livello nazionale misure un pochino più severe, più stringenti? C'è qualcosa che la convince meno, a parte questa cosa dei sindaci che insomma piano piano si sta chiarendo? Guardi, io ho apprezzato molto che il decreto abbia confermato di non chiudere le scuole, perché sarebbe davvero ingiusto che questo mondo paghi nuovamente il prezzo, anche perché la seconda ondata non parte dalle scuole. Credo che il principio di gradualità che Conte ha introdotto con questi decreti sia ragionevole. Dobbiamo seguire passo dopo passo l'andamento del contagio. Più che durezza, l'importante è la chiarezza delle regole, poche ma semplici e chiare, e che si possono far rispettare e controllare. Bene, grazie sindaco Nardella, grazie ancora e un abbraccio a lei a Firenze. Buon lavoro. Grazie mille, buona serata. Grazie. C'è la viabilità, ci sentiamo a momenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, adesso convoco la nostra commentatrice politica del Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri. Ciao cara Barbara, bentornata. Buonasera a tutti. Barbara, hai sentito, quindi ovviamente Barbara siete tutte le sere effetto notte nella sua completezza dall'inizio alla fine, quindi avrei sentito il costituzionalista Celotto, il presidente, il portavoce dei funzionari di polizia, l'Acquaniti e anche il sindaco Nardella, insomma. Questo DPCM, diciamo, un po' fa discutere. Fa discutere, brava, in una parola, sintesi estrema di Barbara Fiammeri, fa discutere. Ecco, tu che cosa ne pensi? Forse è stato troppo prudente, troppo timido Conte per paura di scontentare questi o quelli, sapendo che ovviamente è tanto difficile mantenere insieme le attività produttive che funzionino, le scuole, nello stesso tempo la priorità della salute, dice la curva è molto preoccupante dei contagi, però diciamo che forse è venuta fuori poca cosa da questo DPCM, si sta navigando a vista. Guarda, il governo non vuole essere impopolare. Il punto è che hanno dovuto, come al solito, cercare di tenere insieme situazioni molto diverse che ci sono nel paese, perché ci sono situazioni molto diverse, cioè la Campania, la Lombardia, la Liguria non sono la Basilicata e il Molise, cioè. Quindi è chiaro che poi prendere dei provvedimenti rischi sempre di scontentare, se non li prendi scontenti lo stesso, e quindi uno potrebbe dire vabbè, non va mai bene nulla. Beh, in questo caso secondo me il governo è stato però poco chiaro, e soprattutto mi sembra che ormai sia scavalcato ancora una volta, e questo a mio parere è la cosa più grave forse, dai fatti, cioè la decisione della Lombardia di quest'oggi, cioè di chiudere, di fare un vero e proprio coprifuoco alle 23, di chiudere i centri commerciali il sabato e la domenica. I centri commerciali non alimentari, sì, per ora sono proposte che però il Ministro della Salute ha già detto che sarebbe favorevole. Sì, intanto perché sappiamo che Speranza, come dire, è sempre per una linea molto severa, ma soprattutto perché comunque non è che il Presidente della Regione non può prendere questi provvedimenti, anche perché il DPCM lo autorizza a prendere misure più restrittive, però è chiaro che quando prendi delle misure così importanti un coordinamento con l'autorità nazionale c'è, con il governo nazionale, come in questo caso. Ma ti dico di più, anche per esempio a parte le ordinanze di De Luca, dove comunque anche lì ci sono tutta una serie di divieti per i bar, le pasticcerie, per fare il percorrere per la strada, per esempio in città puoi correre solo fino alle 8:30, poi puoi correre solo nei parchi, quindi ma anche in Liguria il sindaco di Genova sta prendendo dei provvedimenti rispetto a Genova, cioè è chiaro che a seconda della curva dei contagi e del timore di una saturazione dei posti letto, comunque uno deve sempre pensare, perché spesso si dice va bene, ma sono ancora pochi i posti letto occupati dal Covid, ma i posti letto che sta occupando il Covid non sono poi disponibili per altri tipi di malattie, di patologie, certo, che passano appunto in secondo piano, questa anche è la gravità, se sono stati aumentati moltissimo i reparti Covid e le terapie intensive, proprio per evitare che ci sia, che rimaniamo sprovvisti, ma comunque dobbiamo tener conto di questo quando parliamo di questa seconda ondata. La prima ondata è arrivata a febbraio Avevamo davanti la primavera estate, adesso abbiamo tutto l'inverno, ancora adesso l'autunno che deve esplodere l'inverno. E abbiamo le feste natalizie, e abbiamo, cioè ci sono tutta una serie di momenti che rischiano di essere molto pericolosi. Barbara, dimmi una cosa, anche rispetto allo smart working, per esempio, no? Lasciarlo così, diciamo, consigliato il più possibile, eccetera, ma senza dare delle indicazioni precise o degli obblighi, eccetera. Cioè, così, diciamo, alla volontà e alla opinione di chi, insomma, dei datori di lavoro, delle aziende o anche della pubblica amministrazione, insomma, così c'era bisogno forse di indicazioni più precise in un senso o nell'altro, finché sono raccomandazioni, a parte quelle in casa, nel proprio privato, eccetera, ma così a livello sociale, collettivo. Ma non lo so, perché io credo che lì ci sia un problema anche di proprio organizzativo, no? Cioè è complicato che lo Stato entri, come dire, per lo Stato, voglio dire, è complicato decidere rispetto all'organizzazione del lavoro di realtà che sono molto variegate e differenti l'una dall'altra, tant'è che l'unica prescrizione vera è per la pubblica amministrazione, quindi sul privato è molto più complicato, può agevolare lo smart working oppure può decidere che non ci si può arrecare al lavoro per questioni di, appunto, di, come è stato questo inverno, per questioni di sicurezza, no? Quando si è deciso il lockdown, cioè il fermo di tutte le attività produttive, tranne di chi poteva permettersi, come noi ad esempio, nei giornali, di poter lavorare da casa, cioè da remoto. Però, ripeto, tutto questo, come dire, si sta tentando, cioè tutte le misure che si stanno prendendo, e forse, a mio parere, troppo leggere, sono una, come dire, che vorrebbe misure più rigorose, soprattutto perché, come succede spesso in Italia, e basta che ciascuno di noi vada in giro per le proprie città per rendersene conto, è inutile fare delle prescrizioni quando poi nessuno, ci sta una minoranza numerosa che poi quelle prescrizioni non rispetta. Non le rispettano, e quindi diventa una catena senza fine. Anche il coprifuoco delle piazze alle 23 a mezzanotte mi fa un po' sorridere, perché forse l'unica cosa che serve veramente è un coprifuoco come sta facendo la Lombardia, cioè non si esce di casa, perché altrimenti se uno da una piazza si sposta in un'altra piazza, cioè diventa un po' ridicolo, insomma. Vediamo adesso cosa Della Lombardia che cosa si decide, ma insomma, se è favorevole Speranza è probabile che poi da giovedì parta questa cosa, ma su questo ci aggiorniamo, cara Barbara Fiammeri. Grazie, un abbraccio anche buonasera. A te. Ciao cara Barbara. Dario, dici allora che come prosegue la partita Verona-Genoa di Serie A maschile? Siamo al 54esimo, risultato ancora fermo sullo 0-0, risultato che fotografa l'equilibrio che c'è in campo e anche la buona prova del Genoa, che veramente butta il cuore oltre l'ostacolo, malgrado i tanti assenti, è riuscita anche a creare qualche difficoltà alla porta del Verona. Comunque, risultato al momento inchiodato sullo 0-0 quando siamo al 55esimo di gioco al Bentegodi, Roberta. Grazie Dario Ricci, adesso ci lasciamo molto brevemente, ma torno alle 22. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.